Radio Cairo presenta L'Italia in Egitto a cura di Ebtissam Abdelmegid. È del tutto naturale l'approccio che hanno Italia ed Egitto alla cooperazione e allo sviluppo. È l'incontro di due antiche civiltà volto al raggiungimento di obiettivi che contribuiscono ad un'eterna e stretta amicizia. È sulla base di questo principio di mutuo rispetto che si genera le nostre relazioni, operare insieme. Italia-Egitto, rapporti tra due antiche civiltà. L'Osservatorio Egiziano per i diritti dei minori ha inaugurato lo scorso ottobre al Cairo la prima conferenza regionale sul diritto alla partecipazione dei minori ai processi decisionali. L'organismo è stato finanziato dalla Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo della Farnesina con 3 milioni di dollari. Uno stanziamento stabilito dalla seconda fase del programma di conversione del debito Italia-Egitto, realizzato in partenariato con il Ministero Egiziano per la Famiglia e la Popolazione, il Consiglio Nazionale per l'Infanzia e la Maternità. La sessione inaugurale della conferenza è stata aperta dalla Ministra per la Famiglia Mushira Khattab e dall'Ambasciatore d'Italia in Egitto Claudio Pacifico. All'iniziativa ha partecipato anche il direttore dell'unità tecnica locale della DGCS al Cairo, Ginevra Letizia. Tema centrale è stato il contributo che l'Osservatorio Nazionale ha apportato al già consolidato partenariato italo-egiziano in materia di tutela dei diritti umani. L'impegno profuso dai governi di entrambi i paesi non solo ha avuto impatto sulla società in termini di promozione dei diritti delle fasce marginali e più vulnerabili della popolazione, ma ha anche avviato a livello istituzionale un percorso qualificante di riforma delle politiche sociali. Sono contento di sapere che l'Osservatorio stia producendo tangibili risultati, ha affermato l'ambasciatore Pacifico, dimostrando che la realizzazione dei diritti dei minori sta divenendo in Egitto un meccanismo istituzionale in grado di riconoscere i minori come depositari di diritti, le cui opinioni devono essere prese in considerazione in ogni processo decisionale che li riguarda. Nel richiamare la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dei minori come base giuridica della conferenza stessa, la ministra Khattab ha sottolineato la valenza degli articoli 12 e 13 in essa contenuti, che rappresentano strumenti giuridici di singolare natura, in quanto sono i primi ad attribuire una dimensione legale e sociale ai minori, riconoscendone, sebbene ancora sotto la tutela dei genitori, il diritto ad esprimere punti di vista e opinioni e a prendere parte a processi decisionali. La conferenza, concepita come piattaforma regionale di dialogo e di condivisione di buone pratiche e lezioni apprese in materia di partecipazione, ha raccolto i contributi di ricercatori, accademici, rappresentanti della società civile e cooperanti della regione MENA e africana, che daranno vita ad una pubblicazione sulle diverse modalità di attuazione delle politiche a favore di minori sia in Europa sia nei paesi rappresentanti. Accanto agli oltre 400 adulti presenti, un variegato gruppo di bambini e ragazzi provenienti da scuole elementari, medie e superiori ha contribuito alle diverse sessioni della conferenza. I ragazzi hanno avuto modo di esprimere opinioni e punti di vista su come promuovere e migliorare il loro apporto diretto ai diversi ambiti politico-sociali, facendosi parte richiedente e giudicante in merito a temi rilevanti quale il ruolo e la performance dei governi come garanti della partecipazione, e le modalità del loro coinvolgimento nelle scuole e nei sistemi educativi. La conferenza e le posizioni emerse dal proficuo dialogo instaurato costituiranno un tassello fondamentale per l'elaborazione del primo piano d'azione nazionale egiziano per i minori che l'Osservatorio sta ora elaborando. L'Egitto dimostra da tempo una reale attenzione alle problematiche sociali legate ai minori e alla promozione dei loro diritti e l'Italia, grazie al costante impegno della DGCS, lo sostiene con solidarietà ed efficacia. E sempre Italia in Egitto. Con i più cordiali saluti da parte di Ibtisam Abdelmegid e Alessia Abulmak. لبيك يا الله لبيك لبيك لبيك. الرضا والعفو يا مجيري. بس تسبحك في الرضا والعفو يا مجيري. ده انا قد ما بعبودك، انا قد ما بعبودك بشعر بتقصيري. بس تسمحك في الرضا انا قد ما بعبودك، انا قد ما بعبودك بشعر بتقصيري. ومهما مهما اشكرك، انا مهما مهما اشكرك بيخني تعبيري، لكن بيرضيني انك مطلع وبصير وخبير بنفسي، وخبير بنفسي ونية روحي وضميري. Da Radio Cairo iniziamo ora uno spazio giornalistico. Cominciamo con il riassunto delle principali notizie. Un decreto di Mubarak di formare un comitato incaricato degli emendamenti costituzionali. Sulaiman afferma che il dialogo è la via ideale per realizzare la stabilità del paese. Il governo intraprende urgenti misure per promuovere l'economia. Gaza, 8 palestinesi feriti in 3 raid israeliani. Ed ora le notizie in dettaglio. Il presidente Hosni Mubarak ha promulgato il decreto numero 54 del 2011 di formare un comitato incaricato di studiare e di proporre l'emendamento di alcuni articoli costituzionali e legislative. Il comitato comprenderà membri dell'autorità giudiziaria ed alcuni esperti della legge costituzionale, sotto la presidenza del capo dell'Alto Consiglio del Giudizio, il consigliere Serrisian. Il vicepresidente Omar Sulaiman ha affermato che il dialogo è la via ideale per realizzare la stabilità del paese ed uscire dalla crisi attuale in modo pacifico e con un programma di lavoro che possa risolvere tutti i problemi. Durante un incontro con i redattori in capo dei giornali nazionali e privati, Sulaiman ha indicato che il termine partenza, ripetuto da alcuni manifestanti, è contrario ai morali degli egiziani che rispettano il loro capo, sottolineando il proseguimento del dialogo con i giovani e le forze politiche per trovare una soluzione alla crisi. Sulaiman ha confermato che una caduta del regime o un colpo di Stato immergerà il paese nel caos. Sulaiman ha inoltre ribadito che il primo ministro ed i ministri stanno compiendo intensi sforzi per rispondere ai bisogni del popolo e riprendere il corso della vita paralizzata in questi ultimi giorni. Ha infine precisato che lo Stato non potrebbe sopportare più tale situazione, sottolineando la necessità di porre fine alla crisi il più presto possibile. Intanto Omar Sulaiman ha avuto un contatto telefonico con il vicepresidente americano Joe Biden sul sostegno degli Stati Uniti per una transizione in buon ordine e in modo rapido e pacifico. Biden e Sulaiman hanno in particolare evocato delle misure sostenute dagli Stati Uniti, come l'allargamento della partecipazione al dialogo nazionale per includere un largo ventaglio di membri dell'opposizione, lo ha riferito la Casa Bianca in un comunicato. Il primo ministro Ahmad Shafiq ha affermato che il governo intraprenderà urgenti misure per promuovere l'economia e accelerare i tassi di impiego. Il capo del governo ha inoltre sottolineato che nessun lavoratore sarà danneggiato in seguito ai recenti eventi avvenuti in Egitto. Il segretario generale della Lega Araba Amr Moussa ha affermato che il presidente Hosni Mubarak deve restare al potere fino alla fine del suo mandato presidenziale. In una dichiarazione rilasciata al CNN, Moussa ha sottolineato che i suoi sforzi si concentrano sui mezzi necessari per far uscire il paese dalla crisi attuale. Il direttore dell'Organizzazione Mondiale del Turismo ha dichiarato di non aver nessuna preoccupazione riguardo all'attrattiva dell'Egitto come una destinazione turistica, mentre il paese è in piena transizione politica. L'Egitto è una destinazione turistica troppo stabile per poter sparire in un solo giorno dal paesaggio, ha spiegato Rifai in un'intervista rilasciata al quotidiano tedesco Die Welt. Quando la situazione ritornerà normale, il turismo si ristabilizzerà rapidamente, ha assicurato. Il presidente esecutivo del gruppo della Banca Nazionale del Kuwait ha previsto che l'economia egiziana riprenderà a breve i suoi record naturali, sottolineando che il settore bancario in Egitto gode di una buona riserva e di alti livelli di liquidità. Il responsabile kuwaitiano ha inoltre sottolineato che la crisi in Egitto non ha avuto nessuna influenza sulle attività del gruppo della banca. Il governatore del nord del Sinai, il generale Abdel Wahab Mubarak, ha dichiarato che il procuratore generale del nord del Sinai ha deciso di liberare tutti i detenuti che sono stati arrestati durante le manifestazioni organizzate recentemente nel governatorato. Da Radio Cairo siete all'ascolto del notiziario. 8 palestinesi sono rimasti feriti nella notte in 3 raid aerei israeliani nella striscia di Gaza. Il primo attacco ha colpito vicino a Zaitun, ad est di Gaza City, mentre il secondo, il cui bersaglio era un laboratorio nel nord della striscia, ha causato un incendio in un vicino negozio ed il ferimento di 2 donne e 6 uomini. Nel mirino anche un campo di addestramento delle brigate Al-Quds, nessuna vittima. I rappresentanti dei membri permanenti del Consiglio di sicurezza dell'ONU si recheranno in visita in Medio Oriente per cercare di sbloccare il processo di pace e valutare la situazione in Egitto e negli altri paesi della regione. Lo ha riferito l'ambasciatore russo presso l'ONU, precisando che i 15 ambasciatori visiteranno Gaza, Israele, Siria, Egitto e Libano. Facciamo questo passo ora, poiché siamo inquieti della situazione in Medio Oriente, ha spiegato l'ambasciatore russo. 3 autobombe hanno provocato oggi la morte di 4 persone ed il ferimento di altre 20 persone a Kirkuk, città del nord dell'Iraq ricco di petrolio. Lo hanno riferito fonti della polizia ed ospedaliere. Una fonte della polizia ha detto che una prima esplosione aveva come obiettivo un funzionario della polizia irachena, mentre la seconda autobomba mirava ad una pattuglia della polizia. Una terza autobomba è esplosa fuori da un palazzo utilizzato dalle forze di sicurezza curde, ha detto la fonte. La Norvegia intende riconoscere il prossimo luglio il sud del Sudan come uno stato sovrano ed indipendente. Lo ha dichiarato il ministro degli esteri di Oslo, Jonas Gahr Støre, all'indomani dell'annuncio dei risultati ufficiali del referendum per l'autodeterminazione che mostrano come oltre il 98% degli elettori del sud abbiano scelto l'indipendenza. I colloqui militari tra Corea del Sud e Corea del Nord sono falliti. Secondo quanto detto oggi da un funzionario del Ministero della Unificazione a Seul, in un duro colpo per i tentativi di ridurre le tensioni nella penisola. I colonnelli di Seul e Pyongyang si sono incontrati per stabilire tempi e agenda per altri colloqui ad alto livello. La Corea del Sud ha chiesto a quella del Nord di riconoscere il suo ruolo in due attacchi contro Seul lo scorso anno, in cui sono morte 50 persone, ma il Nord si è rifiutato di affrontare la questione, secondo quanto riferito dai media locali. Due soldati della Forza Internazionale di Assistenza alla Sicurezza, ISAF, sotto comando NATO, sono morti oggi nell'Afghanistan meridionale. Lo riferisce la stessa ISAF a Kabul. In un breve comunicato si precisa soltanto che i due hanno perso la vita in un attacco degli insorti. I militari stranieri morti in Afghanistan sono 43 dall'inizio dell'anno ed 11 dal 1 febbraio 2011. Sono 40 le vittime a causa dei fuochi d'artificio esplosi in Cina nella settimana di festeggiamenti per il Capodanno cinese. Lo riferisce l'agenzia Nuova Cina, secondo la quale sono oltre 115.000 gli incendi registrati nella settimana dal 2 all'8 febbraio, scaturiti dai fuochi d'artificio esplosi non correttamente. Secondo i dati diffusi dal Ministero della Pubblica Sicurezza, i roghi hanno causato danni per circa 6 milioni di euro, facendo anche 37 feriti. Con questa notizia termina il notiziario di oggi da Radio Cairo. Ora vi presentiamo notizie al microscopio e sotto il titolo Egitto, dalle parole ai fatti, leggiamo. Di sicuro ci sono stati cambiamenti significativi nel corso di quest'ultima settimana. Spicca tra tutti l'inizio del dialogo tra il vicepresidente Omar Sulaiman e vari esponenti delle forze di opposizione, tra cui i Fratelli Musulmani. Quanto all'esito dei colloqui, i gruppi dell'opposizione hanno fatto sapere che la loro richiesta di dimissioni immediate da parte di Mubarak non è stata accolta. D'altra parte, il presidente egiziano Hosni Mubarak ha dato ieri disposizioni per la formazione di una commissione per gli emendamenti costituzionali, di un comitato per seguire l'applicazione degli accordi raggiunti con il dialogo nazionale e di un comitato di indagine sulle violenze di mercoledì scorso, mentre allo stesso tempo la protesta sulla piazza Tahrir continua ed oggi è entrata nella terza settimana. Secondo quanto ha reso noto il vicepresidente Omar Sulaiman al termine di un incontro con Mubarak, è stata formata la commissione per gli emendamenti costituzionali e le leggi complementari riguardo agli articoli 76, 77 ed 88 relativi alle modalità di elezione del presidente e la supervisione di giudici sullo svolgimento delle operazioni elettorali e sui risultati. La commissione, che dovrà completare i suoi lavori entro febbraio e riferire direttamente al presidente, sarà guidata dal presidente della Corte di Cassazione Seri Siam ed altri 10 giudici e giuristi egiziani. È stata realizzata una mappa specifica per un pacifico ed organizzato trasferimento del potere, ha detto Sulaiman. Il presidente Mubarak ha anche elogiato i giovani dell'Egitto ed ha ordinato che non siano perseguiti e che sia loro riconosciuto il diritto di espressione sulla piazza Tahrir, simbolo della rivolta contro il presidente stesso, iniziata il 25 gennaio. Il vicepresidente egiziano Omar Sulaiman ha rifiutato un appello dell'opposizione ad assumere i poteri del presidente Hosni Mubarak. Lo ha riferito uno dei partecipanti ai colloqui tra Sulaiman e le opposizioni. Gli abbiamo chiesto che il presidente deleghi i suoi poteri al vicepresidente conformemente alle prerogative che gli dà l'articolo 139 della Costituzione, ma lui ha rifiutato, ha detto la fonte. La popolazione è tornata al lavoro domenica e le banche hanno riaperto dopo una settimana di chiusura con lunghe code agli sportelli. I ministri del governo si sono riuniti per la prima volta dopo il rimpasto di Mubarak del 28 gennaio nel tentativo di placare un caos senza precedenti. Anche molti negozi rimasti chiusi da giorni hanno riaperti i battenti. Sulla piazza si sono però radunate come sempre decine di migliaia di persone. L'esercito nelle ultime ore ha ulteriormente rafforzato la sua presenza nella zona del centro e ha tentato di riaprire almeno una parte della piazza al-Tahrir al traffico, ma i manifestanti si sono rifiutati di spostarsi. Da Radio Cairo vi abbiamo presentato notizie al microscopio curato e presentato da Ameni Shahin. Ora, cari ascoltatori, vi presentiamo una nuova pagina del programma Prima Pagina di Ibtissam Abdelmegid. Cominciamo con il quotidiano Al-Akhbar e leggiamo: l'Egitto ha un piano e un calendario per il trasferimento pacifico dei poteri. Lo ha affermato il vicepresidente Omar Suleiman dopo un colloquio con il presidente Hosni Mubarak, ribadendo che non ci saranno conseguenze per gli attivisti che da 15 giorni protestano per chiedere le dimissioni del Rais egiziano. Siamo sul percorso giusto per uscire dalla crisi, ha detto Suleiman, spiegando che è stata stilata una roadmap chiara con un calendario per un pacifico ed organizzato trasferimento dei poteri. Il presidente ha firmato un decreto per l'istituzione di una commissione incaricata di sorvegliare il processo di modifiche costituzionali e di richiesti emendamenti legislativi. Così leggiamo nel quotidiano Al-Ahram. Il lavoro della commissione inizierà immediatamente. Inoltre l'Egitto nei prossimi giorni istituirà una commissione indipendente per indagare sugli attacchi contro i manifestanti di cui sarebbero accusati dei gruppi pro Mubarak. Il presidente egiziano ha inoltre detto che i dimostranti non subiranno conseguenze legali né restrizioni e che non sarà negato il loro diritto alla libertà di espressione. Concluderemo il nostro giro di stasera con il quotidiano indipendente Al-Masriyum e leggiamo un brano di un articolo pubblicato. Nelle piazze del Cairo e di altre città del paese intanto non si ferma la protesta di chi chiede le dimissioni immediate del presidente Hosni Mubarak, uno dei punti su cui si è arenato il dialogo nei giorni scorsi. I manifestanti hanno trascorso accampati nella centrale piazza Tahrir della capitale, cuore di questi 15 giorni di proteste, anche la notte appena trascorsa, preannunciando per il dialogo dopo nuove proteste contro Mubarak. Le richieste dei manifestanti comprendono, oltre all'addio di Mubarak, una serie di riforme costituzionali, garanzie di una completa libertà di informazione e la fine dello stato d'emergenza. Intanto, Human Rights Watch ha diffuso un bilancio provvisorio dei primi 15 giorni di proteste, in cui si parla di 297 morti, dati per ora non confermati dalle autorità egiziane. Da Radio Cairo vi abbiamo presentato Prima Pagina, curato da Ibtissam Abdelmegid e presentato da Ameni Shahin. Ora, cari ascoltatori, termina il nostro spazio giornalistico di stasera. Arrivederci. Thank you. بحار بحار مهيب على باب مصر تدق الأكف ويعلو ويعلو ويعلو الضجيج رياح تثور جبال تدور بحار بحار مهيب وكل تساءل في دهشة وكل تساءل في لهفة وكل تساءل في دهشة وكل تساءل في لهفة أين ومن أين ومن وكيف إذن أين ومن وكيف إذن أمعجزة ما لها أنبياء أدورة أرض بغير فضاء أمعجزة ما لها أنبياء أدورة أرض بغير فضاء أمعجزة ما لها أنبياء أدورة أرض بغير فضاء بغير فضاء بغير فضاء تمضي المواكب بالقادمين من كل لون وكل مجال وتمضي المواكب بالقادمين من كل لون وكل مجال فمن عصر منا إلى عصر عمر ومن عصر عمر لعصر جمال وتمضي المواكب القادمين من كل لون وكل مجال فمن عصر مينا إلى عصر عمر ومن عصر عمر لعصر جمال وكيف تحقق ما كان وهما ومن أنت الذي يا ترى حقق وكيف تحقق ما كان وهما ومن أنت الذي يا ترى حقق وكيف تحرر من أسره سجين الزمان ومن أطلقه وكيف تحرر من أسره سجين الزمان ومن أطلقه من أطلقه لقد شاد بالأمس أهرامه بأيد مسخرة موسقة لقد شاد بالأمس بأيد مسخرة موسقة وها هو يبني ويبني بحرية دائما آمالي المشرقة Thank you. ويحس كف أرزاق أبنائه حرة بسد مليء عجيب البناء بسد مليء عجيب البناء يبص الرخاء ويحس كف أرزاق أبنائه حرة وحرية أرائهم مطلقة مطلقة وليس لهم سيدنا ومسعود فكل سواء بلا تفرقة معجزة ما لها أنبياء كدورة أرض بغير فضاء كمعجزة ما لها أنبياء كدورة أرض بغير فضاء كدورة أرض بغير فضاء كدورة أرض بغير فضاء. وصاح من الشعب صوت طليق قوي أبي عميق عريق وصاح من الشعب صوت طليق قوي أبي عميق عريق يقول أنا الشعب والمعجزة أنا الشعب لا شيء قد أعجز من الشعب صوت طليق قوي أمي عميق عريق وصاح من الشعب صوت طليق قوي أمي عميق عريق يقول أنا الشعب والمعجزة أنا الشعب لا شيء قد أعجز كل الذي قاله قاله قاله أنجز. Radio Cairo vi presenta Enciclopedia Audio. Un programma a cura di Ameni Shahin. Carissimi amici, buonasera. L'Egitto è conosciuto per avere uno dei codici amministrativi e legislativi più iniziali nella storia. In occasione del dibattito sugli emendamenti costituzionali volute in Egitto, dedichiamo questa puntata a parlarvi della Costituzione egiziana. Rimanete dunque con noi. La Costituzione della Repubblica Araba dell'Egitto è la legge suprema dell'Egitto. È stato adottato sopra 11 settembre 1971 attraverso un pubblico referendum. Più successivamente è stato emendato dentro 1980, 2005 e 2007. È stato affermato per aggiornare democratico rappresentante sistema nell'asserzione della norma di legge dell'indipendenza dell'ordinamento giudiziario e della pluralità del partito. Cari ascoltatori, l'Egitto è conosciuto per avere uno dei codici amministrativi e legislativi più iniziali nella storia. Tuttavia, la prima forma codificata moderna di una costituzione nazionale aveva luogo nel 1923, dopo la rivoluzione del 23 luglio 1952, quello ha condotto alla dichiarazione della Repubblica ed il presidente Nasser ha adottato la prima costituzione scritta della nazione come Repubblica nel 1956. Durante il periodo corto della Repubblica Araba Unita, Egitto e Siria, il presidente Nasser ha adottato ancora un'altra costituzione per la nuova fusione. Tuttavia, quando questa fusione è stata dissolta, l'Egitto ha restituito alla Costituzione 1956 come relativa legge suprema. Nel 1964 il presidente Nasser ancora una volta ha introdotto una nuova Costituzione scritta per la Repubblica come la Costituzione provvisoria 1963. Nel 1971, quando il presidente Anwar Sadat ha preso l'ufficio, si è mosso verso l'approvazione di una nuova costituzione democratica che concederebbe più libertà ed un ritorno di una vita parlamentare e correggerebbe la pratica democratica con il ritorno dei partiti politici e di un sistema parlamentare bicamerale. Questa costituzione è conosciuta come la Costituzione egiziana permanente. Anche se dalla relativa ratifica è stata emandata tre volte da due presidenti, primo nel 1980 dal presidente Sadat alla conclusione della sua presidenza ed altre due volte dal presidente Hosni Mubarak nel 2005 e presto 2007. Oggi, cari ascoltatori, le varie alimentazioni politiche nell'Egitto hanno chiesto a più riforme nelle speranze di una costituzione più completa, che modellerebbe una vita politica egiziana migliore se con le correzioni più complete o con l'approvazione di nuova costituzione. Amici, siamo così giunti al termine della nostra puntata odierna. Arrivederci. Da Radio Cairo avete appena ascoltato Enciclopedia Audio, un programma curato e presentato da Ameni Shein. Yeah. لبيك يا الله لبيك لبيك لبيك يا الله لبيك لبيك لبيك يا الله لبيك يا بشعر بتقصير بس تسمحك في الرضا والعفو يا مجير ده انا قد انا قدي ما بعبودك بشعر بتقصير ومهما مهما اشكرك انا مهما مهما اشكرك بيخني تعبيري لكن بيرضيني انك مطلع وبصير وخبير بنفسي وخبير بنفسي ونية روحي وضميري يا لبيك يا